pronto, c'è qualcuno? Pronto? Qualcuno in questa frequenza? Pronto? Pronto? Ciao Marco, pronti, pronti, sono qua all'ascolto, pronti, pronti. E bello, e cosa stai combinando? Ma sono il dottore fumante hai? Ciao. Non ho capito, ho mangiato. Ho detto, ma il saldatore fumante hai, perché tu sei tipo la saldatore acceso. No. No, sto controllando roba al telefono, niente di... Ho fatto un acquisto e sto controllando la... l'email, dai, niente di particolare. No, saldatore, basta, Quando sono stressato, là, me l'attacco. Ho capito, va bene. Dimmi un po', va bene con la modulazione? Sono in macchina, avrai il segnale oscillante. Com'è la modulazione? È sufficiente? Sì. A voglia, più che ultima. Segnale va in piene 9, 8, 9, capito? Dove ti trovi di bello? Sono del pontone. Semaforo passato, a vedere la metro della collina. Mamma, che spettacolo, che bellezza, è proprio una cosa fantastica. No, perdonami, non ho capito dove sei. Su al pontone. Guarda, sto scendendo adesso, sono in discesa, quasi quasi ti vedo, quasi quasi ti... In pigiama ancora, se ci abbatte. Aiuto, a che vuoi vestire? No, pigiama la gioco, pigiamatte no. Ci ho portato il cane, non ho voglia di vestirmi, ma sono uscito in pigiama, ho messo giù botto, scarpe da tennis per camuffare un po'. Sì, vabbè, il segnale poco fa, non è che spariva, eri lì, 8, 9, adesso sta salendo piano piano. Perfetta, radio più che ottima. Bene, questo cicafuso allora continua a funzionare. Guarda, adesso devo mettere bene a punto lo schermo, perché vedi che c'è un errore allora. Ti vedevo con le ciabatte, invece no, erano le scarpe. Pigiama avevo visto, a rigo là, le scarpe, ha sbagliato. Vabbè. Nuovo è lui, non uscire perché c'è freddo, ci sono 11,5 gradi, c'è freddo, il cielo così, una mezza schifezza, un po' coperto, un po' no, nuvole che vanno e che vengono, un casotto. Guarda, ero dentro casa mia, in piazza, e ti posso dire che c'era il sole caldo, c'era anche caldo, ci credi? Sì, quando ci sono queste nuvole, il sole è caldo, ma se passi all'ombra sono cose serie, sono cose serie, ci vuole per forza il giubbotto, ci vuole il giubbotto. Vediamo se c'è Fabrizio, se l'ascolto. Fabrizio, attenzione, non mollare il saldatore ad aria, perché sennò tutti i componenti si mettono a correre sul circuito stampato. Se ci sei, batti un colpo, Fabri. Mi sa che lui con il saldatore caldo fumante. Sì, comunque tornando al discorso del pigiama, quello di su era a righe. Senti, ho detto che c'è una strumentazione in macchina, qualcosa di bestiale. Una strumentazione pazzesca. Adesso tu ad esempio, sai quante persone ci sono qua? Te lo dico subito, aspetta, mi accendo. 47, ci sono 47 persone in ascolto. Non sfugge niente. 47 persone, cavolo, ci sono solo io, là. Vabbè, io sono anche al computer, sai, un po' al computer, solo un attimino che... Ok, abbasso questa roba qua. E poi sto lì in ascolto nell'inchinazionale, là. Per carità, non so, tu sei mai entrato in quell'inchi lì, però c'è un tipo che sta dalla mattina alla sera, ma dietro facciamo dei lavoretti, sempre lì aspettando che entri la gente per offendere, spernacchiare, insomma, prendere per i fondelli gli altri radioamatori. Io non ho parole, veramente. Perché non c'è qualcuno, o perlomeno, come capita alle volte, questi personaggi non hanno capito che oggi ti ritracciano. Tu puoi essere anche in capo al mondo, ma ti trovano. Se ti vogliono trovare, ti trovano. E succede che magari passano un anno, 6 mesi, 2 anni, poi però un bel giorno ti hanno trovato, e quando ti hanno trovato paghi come quello di Roma, c'era uno così a Roma e lui era convinto che non l'avrebbero trovato, invece gli hanno suonato il campanello e l'hanno portato direttamente dal magistrato. Ma hai capito? Funziona così, uno pensa di stare simpatico, di turbare, fare, ignorantemente, perché uno è ignorante, uno che non capisce che quando c'è un caporetto ti trovano, c'è poco da fare, ti trovano la seconda guerra mondiale, sicuro, fuori della tecnologia, oggi o mai, ti trovano subito, tanto più che è possibile oramai anche con applicazioni modeste, non più come un tempo, sono cose molto più complesse. Non pratico molto, non faccio molta attività sui ponti ripetitori, preferisco più fare attività di sì, infatti c'è questo tipo, mi sa che non lo so se è il tecnico, non mi ricordo il nome di quell'internazionale, comunque entra spesso e volentieri. Comunque quello che si occupa del ripetitore mi sa, e gli hanno detto prima o poi ti troviamo, poi tu continua così. Poi detto, se vuoi entrare senza problemi, niente, continua a offendere, stai lì, prendere per i fondelli, non lo so. Come qua lo stesso, è capitato che magari non c'è nessuno, poi inizia a entrare la gente e poi inizia a entrare l'imbecille a rompere le scatole. Su frequenze così libere tanto quanto, ma su frequenze radioamatoriali o comunque frequenze per utilizzo civile, cose del genere, entrare a disturbare veramente da stupidi, è proprio da stupidi, perché comunque si trovano. Poi oramai non è più come un tempo, ti ripeto, prima i ripetitori era tutto analogico, perciò comunque uno se doveva circoscrivere una zona doveva disattivare manualmente il ponte, doveva spegnerlo, cioè disattivarlo, e perciò identifichi, no? Il link nazionale, ci sono 15 ripetitori che sono collegati, linkati uno con l'altro, spegni uno, spegni l'altro e senti se il disturbo continua a correre, vedi da dove entra, vedi da quale zona lui accede al circuito, e perciò identifichi un'area che può essere di quanti chilometri, 40 chilometri, 30-40 chilometri, e dopodiché incominci in quei 30-40 chilometri a scandagliare, finché lo trovi, arrivi proprio sia a casa sua, ma non si è capitato, ne abbiamo parlato. Questa storia è successa anche a me e a Walter tanti anni fa, che c'era una persona che ci disturbava su frequenze radioamatoriali e siamo arrivati sino a casa sua e abbiamo suonato il campanello. La tecnologia sta avanzando, non è prima come hai detto tu, che prima analogico, lo so. Troppo per lui, piangerà, sai che può negare, ma non va bene, inutile. Io sto lì e ascolto queste persone che fanno delle prove, fanno delle antenne, insomma, come fate voi più o meno, dai, tutto qua. L'imbecille comunque c'è sempre, sia nella vita reale che nella vita virtuale, diciamo, dai. È così Luca, gli imbecilli ci sono a tutti i livelli, perciò peggio per lui, speriamo che capisca e che la smetta per tempo, perché poi finisce male. Anni fa qui, anche qui a Sassari era successo, non altro. Cioè quella circostanza che ti ho detto, noi non l'abbiamo denunciato, perché comunque è una persona che conoscevamo, ma ci è mancato poco, ci è mancato veramente poco. Ma invece altre persone che non avevano nessun tipo di autorizzazione si prendevano gioco su altre frequenze e avevano comprato delle apparecchiature, disturbavano invece quelli e è finito che invece sono stati presi e sono finiti in tribunale e sono stati condannati. persone che dovevano essere persone per bene, tra virgolette, perché erano anche persone colte, eccetera, e non pensavano di giocare così, e sono finite in prettura, è finita male, e sono stati condannati. Gli è passata la voglia di ridere, di giocare, di turbare, di dire parolacce, cose del genere. È passata veramente, qui a Sassari. Tra l'altro, per certi versi, stavano quasi creando problemi anche a un rivenditore che invece non aveva nessuna responsabilità, perché, come sai, la vendita è libera di apparecchiature, vendita libera, ma non ma la detenzione non è libera, cioè che sono quelle cose assurde di questa nostra nazione, va. Cioè veramente cosa la tratti, cioè tu puoi comprarla ma non potresti detenerla, ma che significato ha? Sicuramente l'ho portata io e tu mi dici che dovrei fare la portata. Cos'è che hai detto? Aspetta, devo abbassare il volume, ma non parli tu, mi sgarri sempre l'Alan 48. No, sono 4-3-3, te l'ho fatto ieri. Ho detto adesso ti metto la portante io e tu mi dici dove sono, brava. Sì, certo, adesso non sono organizzato per farlo, ma se giochiamo a questo gioco ti trovo, vengo sino a casa tua, dovunque tu ti trovi, sul pianeta, e ti dirò di più pure, Buseo sei nel pianeta, ma se sei nel proviene dallo spazio, e già lo sai che è giallo proprio con due L. Già lo so, che mi trovi giallo. Ciao Marco, buonasera, ciao anche a Luca. No, mi sono entrato adesso qua in stanza perché non mi viene cuore manco a entrarci. In tutte le cassette che ci sono, in mezzo ai piedi, non riesco neanche a muovermi, quindi a te faccio un salutino, giusto per far scaldare un po' questa vecchia baracca. Questo è il 430 che avevo comprato a Walter, mio Marco. Sono riuscito a revisionarlo quest'anno, 10 anni che non lo toccavo. Cavolo, addirittura quello lì. Ma sei quello il primo che aveva, risale ai tempi della cameretta di Marco che era nato da poco. Era nato da poco, sei quello lì, sei il primo che aveva. Mi ricordo ancora la cameretta bianca con i profili azzurri, che ridere. Sì, penso che sia uno dei primi, perché io avevo non avevo neanche il 440 ancora, quindi il 440 ha un sacco di anni, il primo che comprai, e l'ho comprato a lui, almeno 10-12 anni fa, 10-12 anni fa, mi pare che, non ricordo manco come stavo lavorando, forse ero ancora a Cagliari, non so. Non ho mai revisionato, Fabrizio mi aveva cambiato il display perché si erano bruciati gli ultimi due decimali. E basta, andava sempre bene. Poi ho iniziato ad avere dei falsi contatti, infatti me l'aveva detto, stai attento che non poi ti lascia a piedi. Alla fine dovevo prendere la colpi, ogni volta a colpi perché si spegneva da solo, eccetera. L'ho mandato e mi hanno cambiato tutto il kit delle spinette, sai, tutti quei cavettini a spinette che ballavano, facevano, c'erano tutte saldature proprio che non c'era manco stagno, qualche integratino, qualche condensatore, qualche, insomma, me l'hanno tutto revisionato e messo a posto. Adesso va bene, devo metterci il filtro M, infatti lo sto cercando perché non ha il filtro M, quindi devo tenere la frequenza, non è esattamente centrata perché c'è lo spostamento, capito? Devo metterci il filtro M, perché se ci sono devo metterci il filtro M, sicuramente non c'è mai stato, ma io lo usavo poco perché avevo il 440. Dove sei? Lontano da Sassari o vicino? Sono a Predanienda. Sì, sei quello, perché poi lui ne aveva comprato un altro, ce l'ha ancora, ma quello lì, questo che ha adesso, no, che aveva comprato, diciamo, in tempi più recenti, dai. Sei quello, non so, perché fra l'altro poi avevamo fatto qualche operazione, qualche scambio, ma decenni e decenni fa, non mi ricordo, perché ce l'avevo anche io, poi avevo preso un 440, avevo un 440 che avevo comprato nuovo, poi avevo il 140, poi avevo il 680 anche, e poi il 430 non mi ricordo. se l'avevo dato a lui, mi pare di sì, mi pare l'avevo dato a lui, mentre ne avevo dato un altro di 430 che era proprio nuovo a Maurizio MTB, a Maurizio Bussi, l'avevo dato, ma nuovo di 430, il 430 però aveva già il filtro AM, perché io usavo AM, e anche il filtro invece che quello da 2.4 aveva il filtro da 1.900 mi pare, l'SN88 mi pare si chiama, se ricordare così a memoria. Sì, sì, mi ascolto benissimo, i segnali fortissimi anche a Luca, al quale passo antenna. Avanti Luca. Sì, un attimo che sto chiudendo un computer, dai, che siccome me l'hanno dato per sistemarlo, perché siccome manca la batteria veramente. La persona ha deciso che non lo sistema, io lo sto chiudendo, dai, riprendete voi, riprendo subito, che sta arrivando a ritirarsi. Ehi, grazie, ancora faccio compagnia a Marco, sino a quando si ferma magari per QRL. Sì, ce li ha tutti e due, sono uno l'SN e l'altro l'SN88 mi pare, una cosa del genere, quello dell'M è l'SI lunga, qui lunga 88, G88, una cosa del genere. No, io ne avevo uno che ce l'aveva, poi ne avevo preso un altro e no, e niente. Però ti ripeto, non mi ha mai creato problemi perché lo usavo molto nel SSD, mi era ascoltare, a fare qualche passaggio, eccetera. E vabbè, se lo trovo glielo faccio mettere, se no rimane così, non è che mi crei problemi, non mi interessa. Però ho già chiesto appunto al tecnico, quello del laboratorio che me l'ha messa a posto, che me l'ha revisionata, ma poi me lo procura lui. Poi chiaramente ci vuole qualcuno che me lo piazzi, perché io non sono capace, c'è da smontare il circuito stampato e saldare là sotto, mi pare, no Marco? Sì, mi pare che il 430 bisognava saldare, mentre il 440 poi l'avevano fatto con l'Eclipse per poterlo sfilare e rimettere, e con i ponticelli quando poi non c'era di cortocircuito, mentre il 430 bisognava saldarlo. Ma è una bella radio, il 430 è sempre un ricevitore, come ricevitore è anche meglio del 440, è migliore. Niente, l'unica cosa, ecco, che ovviamente avendo 40 anni incominciano a crearsi i problemini, i componenti che incominciano a difettare, ovviamente sono vecchi, poi diciamo che se poi viene usata costantemente magari dura di più di una che invece viene lasciata ferma per anni, quella proprio la delle riaccende e delle lampi, perché i condensatori magari in perita si hanno mangiato buona parte delle piste. Già peraltro il 430 ricordo che era un po' povero di stagno nelle saldature, ricordo che era frequente che si creassero dei problemi nelle saldature dei componenti, e perciò nel tempo poi con ovviamente le escursioni termiche e cose varie tendeva qualche componente a dissaldarsi dal circuito stampato e insomma a cominciare a funzionare bene. Vabbè, comunque nel complesso però una radio che nonostante i suoi anni è sempre, ma sono dei pezzi belli, insomma, non so, tipo il 940 ad esempio, anche da poco ne ho visto uno bellissimo, chiaro, come fai? Cioè una radio così era, sono pezzi della storia, il 940, il 765, l'avversario quello della Ico, ma cioè, sono delle radio bellissime, cioè, ancora oggi sono delle radio fantastiche con le quali uno può fare collegamenti con tutto il pianeta e divertirsi alla grande. Io lo credo. Sì, beh, ho avuto anche il 930 io. Il 940 l'ho avuto 5-6 anni fa, l'avevo venduto. L'ho venduto esattamente quando stavi facendo i lavori su a casa tua, quel periodo lì, perché me l'aveva venduto Luca. Capito? E quindi era quel periodo lì, che Luca stava lavorando lì a te, esattamente in quel periodo. KK, no, questa è eccezionale, è nuova, però ti dirò, Marco, che rispetto al 440 non mi ha mai creato problemi. Il 440 mi ha difettato due o tre volte di VCO, questa mai niente, questa proprio solo, come hai detto tu, falsi contatti, proprio i circuiti stampati erano vuoti di saldatura, non c'erano più saldature, quindi ha dovuto tutto riprendere le saldature. Poi si è accorto che tutto il kit delle spinette era talmente vecchio e quindi mi ha messo tutto il kit nuovo, non solo me l'abbia preso, insomma, ma abbastanza onesto anche come insomma riparazione, come soldi eccetera, ma tutto rifascettato, tutto messo in ordine, tutto a posto. Vabbè, l'unica cosa che manca è questo filtro M, però io so come farlo funzionare anche senza il filtro M, perché deve andare in una certa maniera. Infatti a posto del filtro mi ha messo un ponticello con una resistenza, capito? C'è un ponticello con una resistenza, mentre in SSB e in FM va benissimo, in AM devo procurare questo filtro che gli ho già dato carta bianca di procurarmelo e mandarmelo, perché chiaramente qua chi che ce l'ha? Sì, questa AMA si trova, non è una cosa difficile, ne hanno venduto talmente tante di quelle radio e di quei filtri che non è una cosa complicata, basta solamente ogni tanto dare un'occhiata o su Subito, su internet, su eBay, e si trova, non è una cosa difficile da recuperare, 40-50 euro e certo, eviti di stare col VFO spostandoti per trovare la ricezione migliore. Va bene, ok, dai. Io sono arrivato già da un po' qui a destinazione, adesso scendo, dai, ci sentiamo magari dopo quando riparto. Ok, da frappè, dai, ci sentiamo. Ciao Marco, con QRL, sono qua in QRX. Ok, a dopo, ciao. Cappa, a dopo, ciao. Oh, io ci sono rientrato, ci sigla. Sì, già sono qua. Sì, dovevo consegnare questo tablet. Vabbè, un computer, come un computer praticamente. Abbiamo attaccato la batteria, non c'avevo manco l'alimentatore, se l'ha comprato l'alimentatore, ma non accende. Se non ha la batteria non accende. E niente, ha deciso che non lo vuole riparare, pazienza. Quando ho posto le cose le riparo, quando non si può, non si può. E poi magari una persona non è. Era lì un po' lì, la giusta non la giusta, e poi si è arresa, non la giusto più. Vabbè, vuol dire che ha detto le luci, che non va bene, le ritica. Vabbè. Kappa. Purtroppo è così. E poi che. Non sono sicuro, ma come è che in appuro, perché c'hanno un. Vabbè, qua non lo posso dire, vabbè, comunque hanno un negozio. Non so come te me motivi fammi. Ehi, bello, se no vuole riparare, pazienza, serbi le luci. Allora, qua sto leggendo, poi non so se sono cavolate. Sassari, troppi assembramenti, chiusi 3 bar e 2 circoli. Sì, ma i circoli devono chiuderli tutti, per conto mio. Perché sono quelli che fanno casino, capito? Con tutti gli somnivesci, tutti gli imbriagoni che andano allo circo a giocare a cacchia, a tutta la rinchivia, a birra in mano, quelli fanno un sacco di danno. Quindi per conto mio li possono anche chiudere tutti, capito? Possono chiudere anche tutti. Poi i bar, sì, ne hanno chiuso uno via Torre Tonda, mi sembra, ma l'aria, qualcosa del genere. Cosa sto dicendo? Ancora non è successo niente, aspetta a Pasqua, Pasquetta. Se tu ne sai qualcosa, questi tamponi li stanno facendo o no? Cioè queste persone che arrivano da fuori, allora tu pare non li soffendi. Cosa non? Mi senti là? Io. Ho detto se i tamponi li stanno facendo queste persone che arrivano da fuori. Ah, mi sembra di no. Stavo mettendo la portante. No, perché? Così, stavo mettendo la portante. Ma a me? No, a me, trovate. Aspetta un attimo, vabbè, va. Ah, ti bacio, non ti preoccupare. Non c'è l'importante, no, tranquillo. Oh, regolare lo Smith, ma non la più grana, là. È un casino, guarda, dove aprivo l'archivo, che ne dividi, tu. Adesso vediamo, là. Ma come ha mandato lo schermino? Però non so qual è. Non so qual è il trimerino della ricezione. Regolare lo Smith è la ricezione. zappa. Vediamo se c'è Marco Condor, vediamo allora. RF, ah ecco, RF Metter, Smitter, VR8, sì, il Power AMFM, che è l'VR16, vabbè, dai, però forse la blu, basta, vediamo un po' se riesco a regolarlo. Tu quanti watt stai andando, Cla? Io qua sono con 10 watt modulati e 20, come sempre. 10 watt riportante modulati e 20. Quando fischio sono 30, ma sul parlato sono 20. Allora, tu mi devi dire, preciso, devi essere preciso, che io regolo lo smetto usi a quello di scimmia. Mi devi dire quanto sta arrivando, io lo sto facendo con 5 watt, 5 watt, quasi se fallo 6 watt, avanza. Ora un po'. Deve essere preciso però, così in base poi tu ti devi regolare con i watt, se vuoi che io ti, cioè, ti dia un segnale, non dico come il tuo apparecchio, ma più o meno, vai, avanti, prova. Cioè io devo abbassare i watt, no, non taglio con peso, tu sei 9,25, quando fischi 9 più 30. 9 più, allora 9,25, quando fischio 9 più 30, ok. Tu sei con 20 watt, aspetta un attimo, poi lo devo aprire qua, sennò non li può cubiti, aspetta che cerco il coso per regolare, per toccare il trimerino, gira il ciappo, vediamo che c'è la vita, non è tocco, aspetta. Poi Vannino di Sosso, vabbè, come stai? Ehi, mia mamma, lui è. Ci viaggia KK. Ma perché di nuovo io sì? Ah, così è. Va bene, va bene. E io sono in fase di trasloco, Vannino, quindi sono un po' impegnato. Infatti il radio è un po' assente, ma comunque quando ho 5 minuti già mi faccio sentire, dai. Io ero ho 10-15 giorni proprio, ma adesso avanti ieri, oggi sono un po' più presente, ma così, giusto per fare del chiacchia, far scaldare la radio, dopodiché già rimane d'orrendiera, già andrà d'orrendiera, Vanni. No, io questo è il 430, io le altre me le ho vendute tutte, 440, 140, le ho vendute tutte, non c'ho più niente, questo è il 430 e siccome è anni che non lo facevo revisionare, l'ho mandato a revisionare, era rotto proprio, adesso mi ricordo, se io avanti ieri, non mi ricordo, non me lo ricordo, la verità, e quindi lo sto usando giusto per far andare un po', ma non c'è problema, che è a posto. Ehi, ma una blu più, c'è un ricavaggio blu, è il Galaxy Saturn Echo, le altre le ho tutti i vintage che avevo, li ho dati a una persona, e mi sono tenuto questa, le Galaxy blu, tanto cosa ne vai. Cosa ne vai, già va bene, vai, giusto per fare due chiacchiere, se c'è qualcuno che ha piacere di chiacchierare, conosco di voi, pazienza. Sì, alla fine, avrete sempre ragione tu, quando non è Dante, intanto mi date sempre una, e a voi date fate di fine mara, capito? Allora, tanto vale averne una, buona, a posto, mi dica la durata degli anni, e c'è la Bidellucci. No. Sinceramente parlando, io manco computer ce l'ho attivato, guarda, ho staccato tutto, avrete letto, vai giù la gara, viene di scatto il fatturone, mi fanno visto, aspettiamo che i muratori si tolgano a mezzo alle balle, e dopodiché iniziamo a portare via tutto. Sì, te l'avevo letto, che stavo vedendo, mi pare, no? Te l'avevo già letto qualche tempo fa. Sì, ho venduto fortunatamente, ce l'ho fatta, Vanni, e me ne sto andando in campagna. Ehi, ero bello, ero credono bene, che ha pagato, vabbè, tu vedi diverso, Vanni, anche la tua è una singola, diciamo, nel senso che non è condominio, non è rottura di balle. Io non mi lamento per il condominio, grazie a Dio non ho mai avuto problemi, niente, però hai più libertà, Vanni, hai più libertà, io poi c'ho il cane, quindi ci sono riuscito con tanti sacrifici e va bene così, da. Poi non me la fruttino di chi solo pensa agli altri, tanto gli altri pensano sempre a cose, a altre cose, quindi a me non frutta sempre, non vorrei spiegazione a nessuno, va bene. Io ho fatto il mio passo e va bene così. Ilaria è contentissima, anche perché è attaccata a me, quindi non ci sono problemi. Ciao Vanni, Luca era, Luca del Monte, non c'è problema, era Luca del Monte. C'era anche Marco poco fa, ma sale e scende in macchina per QRL. E io già ben scelto tutta la Serenobbia io. Anch'io ho acceso un pochino per farla scaldare, che mi ha detto appunto di farla sapere se era tutto a posto. Se no non è che giù oggi attaccata alla radio, ha giocato di fa. Ciao Vanni, saluti a casa, già ci aggiorniamo, ciao. Allora Cla, ciao, anche a Vanni, no, se mi ascolti lo sento bassissimo. Cla, io ti ho portato sul più, prova, fa un passaggio. E sul più io ti arrivo, non sempre così tu mi hai detto, non è che ci siano problemi, la mia potenza è sempre questa, sempre intorno, io anche quando non lavoro il 140, ero sempre intorno ai 10 watt di portante e 20 modulati, ma non supero mai 20 watt, va bene così, intanto è inutile andare a tirare il collo a queste povere radio vecchie, capito? Quindi è così. Sì. Aspetta. Perché il watt lo ritocco, sennò un grebo, no, non c'ha lo scifatore questo, capito? Ciao così, Luca, sai ridoppiare i watt, che va bene, non è ben affrutti. È giusto per avere lo smitter a posto, ma non perché lo smitter a posto lascialo stare così, cosa ti interessa. Io questa è la potenza che uso. Magari se vedi il segnale che è un pochino più alto, vuol dire che sto usando il Galaxy con un po' più di potenza, capito? Perché il Galaxy dà 25 watt. Importante. Quindi magari c'è qualche punto in più, ma non fa niente, però la mia potenza è quella. Comunque questo qua è il 3009 SP. 3009 SP, io conosco i baracchini, io conosco la Bavecchia, roba da montinaggio, roba da nuova, non li conosco. Aspetta, ti mando la foto, così lo vedi, non c'è manco lo scifattore. Non è un scifattore, esce che è un casino. No, non è un scifattore, qua. Non l'avevo fatto a vedere, perché non la conosco lui, davvero, non... Boh, magari l'ho vista, però non mi ricordo, non so più. Aspetta, mando anche lo schema, aspetta. Mi mandi uno schema di cosa? Della radio? Allora... Allora, lo scifattore te l'ho mandato, visto? Ecco qua. Ho mandato anche lo schemino dove c'è la regolazione dello Smith, tutte le regolazioni, dai. Ma la radio non me l'hai mandata, però me l'hai mandata due schemi elettrici, ogni tanto io non ne comprendo nulla, però la radio non me l'hai mandata. Ho trovato lo schema anche della radio dentro, come l'ha aperta, e la radio è tra il 2009, ecco. Ah, io la radio la conosco, non quella che aveva Massimiliano. Bello questo schemino, per colore, va. Kappa. Sì, però ma già riesco, dai, poi una volta che già riesco a... Ho toccato solo la regolazione dello Smith perché era molto avaro. Lascia a posto. Sembra che sia a posto, dai, almeno do un segnale, non dico che sia perfetto al 100%, però do un segnale giusto. Grazie, Kappa. E si conferma, e va bene. Però c'è un audio in ricezione che è una meraviglia qua, una meraviglia. No, sono belle radio quelle, vanno molto bene. Se devo dire a Mario, vabbè, quanto mi prende, ma sarà difficile perché l'avevo già portato, a tuo genero, a farmi il faro dalla macchina di Marina. Fare la macchina di Marina, mi sa che glielo dici. Il faro, non la macchina di Marina, il faro. Ah, i fari, devi far pure me, è sempre pieno di travaglio nel Val de Magas. Paghendi è ovviamente. Sì, Paghendi è senza bagà, non c'è problema, è che il casino ha perso in questo periodo. un bel casinato, c'è un bel lavoro, vediamo, mi sembra che debba passare stasera, non lo so, per passare. Comunque anche la colonia sua si sente bene l'audio, c'è la colonia esterna, si sente bene. Leggero lui si sente bene. L'importante è che non rimbombi, non gracchi. No, assolutamente. No, va bene allora. E comunque la sta pompando la sua, sta dando la grazia. Brecche! Registrato il break. Ehi, pompa, ma sempre quello è meglio. Ecco, mitico 4.30. Mitico lo a 2. Ah, sì, a 2. Mentre col 4.40 lo tenevo a 1, a mezzo, però questa pompa molto di più. Ehi. Il casino è buono in culo di 4.40 di altri radio. Avanti Bert, buonasera. Buonasera, salutoni circolari a tutti. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Luca e Bu. Buonasera Luca Ariello, ciao Claudio. Ciao Daniele, saluto anche a te. Ben sentidos. Dopo tanto tempo a me? Sì, dopo tanto tempo. Ci siamo sentiti da poco, là, non ho molto, mi chiama. E non so stai dicendo a me Daniele, te l'ho già spiegato, poco tempo ciò. Poi sto entrando adesso per far andare, come ho detto a Luca, far andare un po' questo 4.30 perché è arrivato, cazzo, cioè non me la metto, c'è arrivato ieri o avanti ieri, buh. E cavolo, appena metto che te la devono consegnare, Cla. Avanti ieri, Cla, perché ieri non ne hai parlato, avanti ieri. Ah no, avanti ieri è arrivato. Perché gli ho telefonato e gli ho detto appunto se a che punto era, ma no, è finita, è già imballata, deve passare il corriere a prenderla. Questo è lunedì, quindi mi ero fatto il calcolo, se la spedisce lunedì, martedì, mercoledì è qua, capite? È tutto a posto. E invece è arrivata lunedì. Quindi oggi cos'è? Mercoledì? Ieri avanti ieri, è arrivata lunedì pomeriggio da il mercoledì della settimana scorsa, quindi capito Daniele, per quello, perché non c'è passato il corriere a prendere a lunedì, è passato giovedì, quindi è arrivata lunedì, ed è giusto. Il cavolo, beh sì, alla fine già è giusto, ma insomma, c'è un ritiro programmato. Lo so, però lì dice c'era tempo brutto, casino, sai, il corriere non è lì, è un paesino di 8.000 abitanti, quindi deve venire deve essere dalla città, non lo so, non ci ho mai capito niente. No, se spedisce puntuale, ad esempio quando ho mandato il 140 ad allineare, me l'ha spedito il lunedì ed è arrivato il mercoledì alle 3, primo pomeriggio, dopo pranzo, capito? No, già va bene, è che non l'ha spedito lui lunedì come aveva detto, è partita giovedì la radio, quindi già mi stavo facendo il segmentale, mi stavo preoccupando, allora l'ho chiamato, e mi ha detto no scusa, ti devo chiamare io perché lunedì il corriere non è passato giovedì, e cazzo avvisami, e già io ero preoccupato che la radio è parita. Beh, pure pensi tutte. Cara, va bene, poi te sei arrivata, dai. Bene, Meda. Riprendi Luca Rie. Oh, Daniele, quanto ti stanno arrivando i segnali? Guarda un po', 1, 2, 3, prova, vai. Sei a picchi di 9.20, Lu. Da allora è fatto bene, anche tu sei a picchi di 9.20. Bene, Meda, va bene. Vabbè, ma non ti è arrivato il 60 ancora? Domani dovrebbe arrivarmi in classe. Se tutto va bene. Poi domani mattina mi controllo lo stato della spedizione, ma è in viaggio. Spero che sia a posto il microfono, che vada bene, mi sa che fai sempre in brescia. Aspetta, aspetta, hai visto che si è sbloccato e ce l'avevi. Perché non non sapeva se doveva acquistare, fare, e forse non è per un'altra, perché ora abbiamo telefonato, ha detto, no, non compro più niente, dille se non vuole che glielo do, invece te l'avevi già comprato, vabbè, pazienza. Tappagappa, ma perché non sta uscendo bene questa radio? Dai. No, va benissimo, per carità, niente da dire. Se non va bene già, devo dire a fianco, i problemi non ne ho, ma mi ha garantito che andava bene. Se no prendiamo anche l'altro. Ehi, K. Bisogna stare attenti con questi 60 che ci sono in giro, perché molti sono difettosi, cioè sai quel problema che hanno sotto del out-in, no? Si inceppa, fa. Molti tolgono la capsula, lo modificano, lo fanno, come già è successo ad una persona che appunto mi stava chiedendo l'informazione, ho detto, io non so darti nessuna informazione, io è una vita che uso l'MC60, non so manco come ho fatto dentro, figurati, non ho mai educato, mai niente, mai assolutamente niente, sono microfoni eccezionali che vanno bene, basta che uno lo tenga come deve essere, se poi si mette a toccarlo allora è un casino, va niente, capito? Va bene, avanti Lu. Sì, l'ho piazzato, qua c'è a posto, là. Ehi, Fide, vai a cuccia, vai, vattene, fratelli. Tutto a posto, io sto contando qualche soldino qua, ci già mi basta, là, per fine settimana. Lu, cos'è quel sibilo che c'è sottofondo? Quel? Si sente un sibilo, non lo senti, Cla? Deve essere un attore, sarebbe questo sibilo? Magari tu non lo senti, Lu, però c'è un sibilo in sottofondo, se sei attento con l'orecchio lo senti. Sarebbe, non so cosa sia questo sibilo, boh, c'è il verbo? Un fischio, un ronzio, boh. Non so, guarda che non sto toccando il microfono, adesso. Si sente, tu confermi. Guarda adesso, io aspetto la luce. Non sento niente, io Ranieri, si sente appena appena una ventolina in lontananza, ma sta uscendo benissimo alla grande. Boh, orecchio fino deve essere diventato allora. Ma io sento una specie di sibilo, di fischio, ma è sottile. Vabbè, no, sta uscendo bene, sì, però sento il tuo sibilo, vetro non ne sento io. Allora, vetro non ne ho, questo qua è quello che mi ha detto il diventatore Clash, ti ricordi? Quello che pesa 700 kg. E vetro qua non ne ho, la vetro la ce giù. Guarda un po', che non sto toccando il microfono e ho spento la luce, siccome c'ho questa lampada, quelle che è allungabili, no? Che la uso per lavoro, la uso anche qua, quando la accendo devo cercare qualcosa. Guarda un po', Dani, perché a me qua non mi segna niente, ma se no mi avrebbe segnato qua nello smitter, ma non si muove. Aspetta, subito devo vedere. No, non sta segnando niente. Ehi, fregate, lui che c'ho il telefono giusto, no ti avrei fatto la registrazione. Va bene, riprendi Cla. No, io la verità non sento niente, Daniele. Sento pulito, blu. Pensavo fosse qualche ventolina, qualcosa, sentivo un fruscio, forse la TV, non so cosa c'ha Luca acceso, però sto uscendo bene. Cappa, aspetta un attimo, Lu, ti faccio la registrazione così la mando sia a te che a Claudio, così sentite questo fruscio, dai, aspetta un secondo. Ma dai, il problema è tuo, no? Aspetta Cla, prova, vabbè, tu c'hai troppi. Hai troppi cosi, sente troppo QRA la tecla, il televisore, tricche ballacche. Se questi mette portate tu senza parlare, magari ce l'avrai anche tu. Prova Cla. Brecco. Brecco, avanti. Hai di niente Luca, sto dicendo, io ti sento pulito, cosa non avrei bisogno di registrare nulla. Ti sento pulito alla grande, avanti Robè, buonasera. Ciao Claudio, ciao Luca e ciao Daniele. Ok, c'è qualcun altro? Non ho fatto ascolto, ho appena acceso. No, non c'è nessuno, c'è il mio amico Go e cagami la biglia. Guarda Robè, ti piace la portante muta, dimmi se c'è qualche ronzio o qualche tipo d'alternata, guarda. Comunque la aperto, si sente nel computer, ha ragione, ha aperto il PC, già è accesa. Vai Robert. No, si sente una ventolina leggera, leggera, un soffio di aria, ma niente di più, non è fastidioso assolutamente, neanche si sente. Allora, il problema, due contro uno, il problema è Daniele. Problema Daniele, c'è qualche disturbo e se lo porta appresso, non ne hai niente, si conferma anche Roberto, lo sto dicendo, io ti sento pulitissimo, bene, però la ventolina in lontananza io la sento qualcosa, capito? Quindi ce l'hai la ventolina, ma non è assolutamente, non disturba per niente. Beh, ok, da. Io pensavo fosse questa luce, la tengo accesa perché mi serve, al buio, un casino. Va bene, beh Robert, adesso è finito di lavorare. Sì, adesso mi lascio 10 minuti, sono con un cracco, ho detto dai, accendo la radio almeno come rilassamento mi serve come valvola di sfogo. Per qualcuno è un'arrabbiatura, per me invece deve essere una cosa così, ti rilassi, chiudi gli occhi, ti fai due chiacchiere e finisce tutto il discorso. Avanti a te Daniele che non l'ho sentito, avanti Daniele, fai clac. È andato a prendere il telefono giù, prima infatti quello che dico io. Io ormai mi sono abituato. Se c'è gente che mi fa riparlare ci parlo, se no rimango in ascolto. Capito mia, così deve essere. Va bene, io adesso tra un po' mi assenterò per un bel po', perché devo tirare sul cavo e staccare le antenne, quelle due che ci sono rimaste. E questa, stavo aspettando però che Roberto arrivasse questa per provarla, farla avere un po', se no avrei già staccato tutto. Perché quella roba la posso portare via, le scatole immobili no, ancora perché ci sono i muratori, capito? Però le antenne sì. Non c'è problema, se ti sono aiuto dimmelo. Hai visto quell'incidente di l'incidente, quell'incidente a Ottava? A Ottava, non è Ottava, anche lì punti, un carissimo amico, Auto Deluxe, Roberto Salisi, già la terza volta, voglio un paese quest'anno. Cosa vogliono questi? A Bertolotto Salone lì a semaforo, in via Domenico Milenile. Lì dove c'era Troni, dove aveva iniziato Troni, un bellissimo salone. Già la terza volta che bruciano le macchine, che se vogliono riuscire a comprendere dove stiamo vivendo. No, stai dicendo un'altra cosa, attaccato al mondo convenienza, ma tu devi vedere le fiamme, stanno ancora spegnendo l'incendio. Alle 4 meno un quarto è successo, ed è ancora attivo, non so se l'abbiano spento. Proprio attaccato al mondo convenienza, io pensavo fosse il mondo convenienza, invece un capannone a fianco. E chi è? A fianco al mondo convenienza, Robè, c'era l'ex Aico, come si chiama, quello dei prefabbricati. Lì proprio, se tu guardi, sembra che sta bruciando mondo convenienza, invece c'è un altro capannone attaccato, ma fumo, tutta la strada bloccata, tu guardati le immagini, ho visto le immagini su internet, e buono le mani in capo, una cosa allucinante, vai Daniele. Ciao Robè, ben ascoltato, buonasera. È successo stasera, infatti ci sarà anche il mio cognato di lì in servizio, perché oggi stava lì, dopo più tardi lo chiamo a vedere cosa è successo. Perché lì, non so se ci sono altri tipi di capannoni, altri capannoni. Tarie, suicidio. E qua non avevo niente. Cosa devo scrivere? Metti incendio Ottava, Sassari Ottava. Allora, un bongo. E prendi Daniele. Gava. Aspetta, Lu, fai un... Tieni la portante muta un secondo. Beh, Daniele, siamo due contro uno, Roberto non sente niente, sente la ventolina del computer, sai vedere? Guarda, sono con la ventolina perché è muta, ti lascio la portante. Aspetta che mi è arrivato. Ascoltalo. Magari tu ti porti appresso qualche cosa, Di Luca, no, è pulito, non ha nessun problema, è pulito. Guarda Daniele, cambiamo, vai al 20, facciamo la prova al 20, ma anche a me è successo, al 12 mi è successo questa prova qua, al 10 non c'era però, prova ad andare al 20, mi fai la questa cortesia, vai. Ehi, però Robo, a te a Claudio vi ascolto benissimo, Ehi, allora al 20. Perché no, sono più forti, vai al 20. Dimmi il canale del 20, Lu. 27205, Daniele. Incendio in Sardegna, incendio zona industriale, Pandie, Guarda, Sassari Notizie, scrivi Sassari Notizie e poi Ingegno, incendio Ottava. Sassari Notizie, non vediamo. Sassari auto in fiamme all'esterno della concessionaria, questo è il mio amico. Sassarinotizie.com, spaventoso incidente, tamponamenti. E chi è questa concessionaria grande? Dov'è questa concessionaria? Dove c'è la Truni, Nicola? Allora, concessionaria di Roberto Salis, auto deluxe. Cazzoliero, ma roba la matti, già la terza volta, non so, se l'hanno preso di mira, cosa ne gioco io? È desiderato, lo sento stamattina, ieri di notte. Ci sono ancora i segni delle macchine che ha portato via l'altro giorno, torna, altre tre macchine. Ma scusa, quando è successo questa cosa? Ieri notte. Perché avanti ieri ci sono passato io davanti, era tutto a posto, infatti ho detto catalogo di macchine che ci sono, c'erano una marea di macchine, ho detto cavolo, ce ne sono tante di macchine, l'ho guardato apposta, che le hanno bruciato abbastanza. Ecco, mi ha distratto perché sicuramente saranno fastidi a qualcuno, ho già avuto ricchia. Miserabili, infami, cazzo. Solo così ci possono difendere, capito? Ci siamo difesi invece diversamente, vi ho abbigliato già fra bocca. Avanti, Massimiliano. Ciao Claudio, Roberto, e poi chi c'è? Non lo so. Ehi, pedivè! Vabbè, biciclette. Massimiliano, ti lascio la portante, mi dici se ti senti qualche rumore sotto. No, negativo. Quindi Daniele, 3 contro 1. Vabbè, dai, ciao, buona serata, Massimiliano. Sì, sì. Luca, ciao Daniele, non sapevo mai cosa ce l'avete. No? Ok, vai Robè. Scusa Robè, perdonami, guarda questo, mi senti il rumore Massimiliano, che arriva Daniele. Aspetta, so sì, aspetta. Nessun rumore di quel genere, Daniele. Oh, Lu. No, io non sento niente. Proprio niente. Oh, Daniele, non è invece che te lo porti tu dietro, magari, qualche rumore di qualcosa? Ah, può essere, Massimiliano. Già può essere. Però sia Claudio, a te e a Roberto vi sento bene. Prova a inserire l'NB, prova. Ok, dai, aspetta che salutiamo i più grandi prima, dai, vai Robè. Ehi, ciao Massimiliano, ben sentito. Stai termodulando il coso, lo stadio di ricezione dell'apparecchio. Ma qua c'è la clarifa con la radio o qualcosa del genere, Daniele? Io sono a posto, Massimiliano, va Robè. Cacchio, se ti porti appresso quella roba, vuol dire che il problema ce l'hai tu, perché Luca sta andando perfettamente da parte mia, da parte di Massimiliano idem, da parte di Claudio, vuol dire che si sta tirando appresso il tuo stadio di ricezione, qualche problemino, sta intermodulando il coso, è come che stai andando in risonanza, dai, quando c'hai un altoparlante che senti un rumore di fondo, una cosa del genere. Massimiliano, dell'incendio di Ottava niente ne hai saputo tu? No, so che stava bruciando un capannone lì vicino a Mondo Convenienza e basta. Poi quando stavo scendendo ho visto quelle macchine bruciate lì ai punti, altre tre macchine, cazzo, l'uso a Sagamelli ha visto. Forse magari le macchine lì fuori non le può mettere, capito? Magari qualche dispetto, boh, qualcosa. No, Robè, comunque so che lì è un capannone vicino attaccato a Mondo Convenienza, poi però non so altro. Poi è un capannone in disuso. Te lo dico io qual è. È il capannone di Giuseppe, quello che aveva le celle frigo del pesce. Giuseppe, aiutami, non me lo ammetto, cognome. Buonasera a tutti. Giuseppe, chi è che è intervenuto? Danilo. Giuseppe? Vabbè, qualcuno ha detto il cognome. Vabbè, comunque quello lì, dai, io lo conosco anche bene di persona. Sì, non so se erano sequestrati quei capannoni o mollati, li aveva mollati lui perché aveva chiuso l'azienda, adesso non mi ricordo. Qualcosa avevo sentito. Vabbè, bel Amsterdam, sono partito le celle frigo, stavo leggendo, questo circuito ha bruciato tanto bene. Lì c'è un po' di resina, non mi ha capito quel fumo. Dicono le celle frigo sono tutte in resina, quindi è per quello che ha fatto tutto quel macello. Va bene, ciao Danilo, buonasera, ben ascoltato, avanti. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ma Dani, e beh. E allora Lu? Ehi, ehi, a freddo hai travagliato? Per oggi sì. A va domani? Gada a te, gada a te, va bene, dai. Ma lo sento un po' soffiare tuo microfono, cosa c'hai? Ma questo? Non è pulito pulito, è basso anche di modulazione. Sto usando l'MC60. Non sta spingendo niente. Non sta spingendo? Metti il processore. Se me lo dai dalla tua radio magari riesco a piazzarlo. No, in AM questo qua il processore non ce l'ha. È gracchiante la radio. È gracchiante. Aspetta che provo l'altro microfono, quello originale. Caffa già. Ciao Dani, Massimiliano comunque da questo. Va bene, va bene. Con questa invece bene mi state ascoltando voi, sì? Io la grande, Giuseppe Manca, il capannone Giuseppe Manca comunque. Ma dove c'era la Samac? Dove? Samac, c'era una rivendita di materialini di anche lì, o no? O mi sbaglio? Oh, prima, cazzo, prima. Prima, proprio... Subito dopo mondo con il mezzo rimane, tra mondo convenienza e la. La Samac, bravo, sì. Sì, dove facevano i blocchetti, i mattoni, non è lì. No, la Samac è più avanti, ma c'è la SCAC. Ah, proprio all'interno della SCAC allora. In mezzo rimane, sono dei capannoni piccolini all'interno, capito? Era tutto celle frigo. C'era praticamente il deposito di pesce di Giuseppe. Perché lui gestiva la. Cioè aveva le pescherie della piazzetta, quindi tutte le nonna Isa, un po' di pescherie gestiva, capito? E lì c'era il deposito, c'erano le celle frigo. Ma Claudio, scusa se mi permetto, ma non è Tanca? Non Manca, Tanca. Porca miseria, Massimiliano, bravissimo, Giuseppe è Tanca, non Manca. Infatti delle zone si chiama Giuseppe Tanca, Claudio. Piazzetta. La pescheria che c'è lì alla piazzetta di Giuseppe Tanca. Giuseppe, quelli lì dove c'erano le celle frigo e così. Ci andavo molte volte io spesso lì perché ci lavorava un carissimo amico, capito? Poi ha chiuso, non so, se aveva mollato lì, se non so cos'era successo, comunque aveva mezzo chiuso, mezzo, non lo so, vabbè, non mi interessa, comunque già è lui, sono le celle frigo che gestiva lui, dai. KK, va bene, ok, dai, vediamo Danilo se ha messo a posto la radio, vai Danilo. No, la radio è a posto, è il microfono che ho cambiato, adesso come mi sentite? Questo è più bello del 60. Ecco Danilo, ma fai buba, io non glielo preso, dice 60, cosa va con l'adattatore, non ho capito perché. A me non mi è mai successo una cosa del genere, io lo usavo l'adattatore Icom Kenwood e non soffiava, quello soffia, c'è qualcosa che non va. Allora, sopra c'hai i due tastini, uno è in off e l'altro è a 50k. Ok, l'altro è in off, quella è la portante manuale, non c'entra niente. Quindi 50k è sotto in posizione in. Sì, l'altro è in posizione in. Come questa praticamente, però io lo sto usando con un Kenwood, quindi sicuramente è per quello, non so. Però io ti posso garantire che io esperimenti con il 60 ne ho fatto anche in radio Icom con gli adattatori e non funzionava così, spingeva benissimo. Poi proprio la radio che non avendo processore in AM si comporta così da lì, non lo so. Oh, non te lo so dire, devo macinare con qualche amico. Quello non te lo so dire. Qualcuno che ne sa due strisce in più di questa radio. Ripeto, io non ti posso dare grandi informazioni. Per quello che mi riguarda a me, io il 60 l'ho provato con Radio Icom, ma capito, però c'aveva il compressore.